Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo un attimino in ritardo questa sera, Maurizio. Buona serata a te, buona serata ai nostri ascoltatori. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Appuntamento con Blu Radio Sera anche questa sera su Blu Radio Veneto e anche questa sera con Claudio Rocchi, pietra miliare della musica italiana. Siamo giunti alla terza puntata. Claudio, ci sei? Buonasera Claudio. Ci sono, buonasera a voi, buonasera a tutti, amiche e amici. Ascolto. Benissimo, siamo arrivati alla terza puntata, è una cosa straordinaria secondo me. Siamo partiti dall'inizio, dai primi dischi della tua cavalcata vita musicale e andremo avanti. Certo. Molto, molto, molto positivo secondo me. Cosa dici Claudio, questo è il nostro viaggio? Come si confà, come facciamo un brevissimo riassunto delle puntate precedenti bene. Per quelli che non avessero seguito le prime due puntate. E contestualmente ricordiamo che come nelle due precedenti puntate prendiamo domande dagli amici che ascoltano attraverso la mia pagina di Facebook, per cui se cercate Claudio Rocchi in Facebook lì potete postare delle domande e potremmo rispondere. Quindi riassunto delle puntate precedenti, il nostro, che sarei poi io, inizia giovanissimo, ancora frequentando a suonare con complessioni studenteschi il basso, dopodiché viene ingaggiato da un complessino beat italiano, gli Stormy Six, diventeranno un gruppo più importante, famoso anche per l'impegno politico messo nell'esperienza musicale, e da bassista di Stormy Six, con gli Stormy Six vado per la prima volta in sala di incisione nel 1968 e facciamo un 33 giri vinile, rigorosamente vinile, che si chiamava Le idee di oggi per la musica di domani. Metà delle canzoni sono mie, metà sono dell'amico chitarrista Franco Fabbri, noi che nel nostro delirio firmavamo tutti insieme alla McCartney e Lennon. Dopodiché, essendo in una casa discografica, l'Ariston Records, vengo notato per una certa capacità con la lingua italiana e quindi ingaggiato come giovane autore. Autore vuol dire quelli che scrivono i testi, fanno le canzoni anche per altri. In virtù di autore traduttosamente tutte le canzoni in italiano dei Creedence Clearwater Revival e accendo un cero a John Fogerty, che in quegli anni, avevo 17 anni, ha iniziato a darmi il sapore di una vita professionale, guadagnando qualche liretta, visto che loro erano famosi e vendevano un sacco di dischi. Mi viene proposto di fare un album solista e faccio il mio primo album solista. 1969, si chiama Viaggio, vince il premio della critica discografica italiana, un paio di pezzi di quell'album vengono poi storicizzati come icone di quell'epoca, una fra tutte, La tua prima luna. Questa è la tua prima luna che vedi fuori di casa sapendo di non ritornare, e via derivando. Dopodiché nel 1970, uscito nel 71, Volo Magico è il mio best seller di quei tempi, è un'esperienza musicale fatta con un collettivo di amici musicisti alla maniera delle families californiane, con chitarre acustiche, elettriche, bassi, batterie, cori, tastiere, tutto ciò. Una canzone, a parte Volo Magico, che dice puoi andare dove vuoi, poi puoi essere come vuoi, poi puoi prendere o lasciare, poi puoi scegliere. È la stagione delle freak experiences sulla base, sulle esperienze di quello che succedeva oltreoceano, negli Stati Uniti soprattutto, la controcultura, le esperienze con le sostanze psicotrope, i primi passi sulla via dell'Oriente, le filosofie orientali, tutti quei mondi che hanno caratterizzato gran parte, una buona parte della gioventù di allora. A Volo Magico, famosa di quell'album, anche una canzonetta che io chiamai a loro La realtà non esiste, sciarada che negli anni ancora alcuni non hanno risolto, ma di facile interpretazione, con un minimo di applicazione. A Volo Magico numero 1 segue Volo Magico numero 2, nel 1972, tipo La norma del cielo, L'arancia è un frutto d'acqua, è la stagione dei festival pop in Italia, con decine e decine di raduni che si snodano lungo la penisola accogliendo un popolo vagante di assidui frequentatori, e anche lì per qualche momento si vive e si condivide la percezione, la sensazione, allora non era affatto un'illusione, di farcela a creare un mondo diverso con regole più sane, più giuste, più equilibrate, l'immaginazione al potere, noi siamo migliori, faremo gli errori dei nostri padri e dei nostri nonni, per un po' quel tipo di consapevolezza e di sogno ha sostenuto una buona parte di quello che allora era definito il movimento. 1973, Essenza, mio terzo, quarto album con il nucleo degli Osanna e Mino De Martino, chitarrista di un complesso beat noto, I Giganti. 1974, Il Mire dei Pianeti, Le Isole e le Api, con il nucleo degli Actuala, un gruppo che è un po' la world music grazie alle intuizioni musicali di Walter Maioli. 1975, Rocky, un esperimento di disco fatto in casa, prima del digitale, ancora tutto rigorosamente analogico, quindi tagliando, mischiando, giuntando i nastri, i quarti di pollice, mezzi pollici, pollice, insomma le prime esperienze multitraccia e i primi passi in un mondo di musicalità autoprodotta e soprattutto la ricerca del suono concreto, la musica elettronica. 1976, Suoni di frontiera, puro esperimento di musica elettronica, sono una ventina di frammenti di 40-50 secondi, più lungo un minuto, tra l'altro è stato rieditato di recente in una splendida edizione dalla Die Schachtel. E Suoni di frontiera, nell'idea che il suono possa modulare la psiche, la coscienza e possa avere effetti diretti anche sugli equilibri fisici. Teorie che ai tempi ho approfondito e studiato con altri amici musicisti, tra i quali Paolo Tofani, che era il chitarrista dell'Area, Demetrio Stratos, che era il cantante dell'Area, che erano entrambi amici sperimentatori con i quali abbiamo condiviso parecchi esperimenti. Dopodiché, 1900, finiamo i dischi fatti con l'Ariston Records e finiamo un'epoca praticamente. Certo. Ecco. Esattamente. Poi passiamo, Claudio, a un'epoca diversa, passiamo alla Cramps. Del 1977, cambi etichetta e incidi questa nuova etichetta, praticamente la Cramps era un'etichetta appena nata, incidi un disco meraviglioso secondo me, A Fuoco. L'idea com'è partita, Claudio? Beh, intanto diciamo qualcosa doverosamente sull'esperienza della Cramps a Milano, certo, e di Gianni Sassi, che è stato il suo inventore insieme al suo socio Sergio Albergoni. La Cramps è stata veramente una novità vera, vera nel panorama della musica, della discografia italiana. Un'esperienza guidata da un gruppo di intellettuali, situazionisti, intelligenti, per nulla biechi blu, mercanti della musica, anche se professionisti della pubblicità come esperienza, perché loro avevano un'agenzia pubblicitaria e non a caso avevano una certa sensibilità e gusto verso gli slogan, le immagini, il marketing, si sarebbe detto poco dopo, e tutto ciò però al servizio dell'intelligenza, dell'impegno. Gianni Sassi insieme agli amici del gruppo Fluxus, con Nanni Balestrini, con altri, no? Ha sempre promosso in varie forme la cultura, tra virgolette, la poesia, la danza, il teatro, le arti figurative, e nell'esperienza così inventata dal discografico si è inventato prima di tutto gli Area, che mettendo in piedi dal nulla, trovando degli ottimi musicisti professionisti vestiti dai suoi testi, perché poi i testi delle canzoni erano di Gianni Sassi, di una ideologia movimentata, movimentista, assolutamente rigorosamente avanguardista per i tempi, che declinava le istanze così più politiche, più attente al politico e al sociale del movimento cosiddetto di allora. E poi sulla scia del successo dell'Area, ecco che Gianni Sassi mette sotto contratto altri amici milanesi come Eugenio Finardi, come Alberto Camerini, band torinesi come Arti e Mestieri, Benegoni e Co, insomma, la bella band, Roberto Ciotti, Bluesman, insomma un catalogo, Claudio Rocchi, un catalogo di gente garbatamente diversa, garbatamente alternativa a quei tempi, che quindi esce nel panorama della discografia italiana come una forza dirompente. questo è Gianni Sassi, questa è la Cramps. Sotto contratto con loro io faccio nel 1977 un album che ho chiamato A Fuoco, in copertina un ideogramma dei Ching, che è appunto quello del fuoco. Con questa doppia lettura, a fuoco si può fare mettere il fuoco in un obiettivo con la macchina fotografica, quindi calibrare la visione, oppure a fuoco mandare a fuoco, bruciare, brucia ragazzo brucia, le istanze certo. Di vogliamo il mondo e lo vogliamo subito, cambiamo tutto, riprendiamoci. Tra quei due fuochi, quell'esperienza che per me è stata irripetuta e singolare, perché mi sono cimentato per la prima volta con la scrittura per una grande orchestra, ho fatto arrangiamenti scritti per la prima volta, io che sono sempre stato fautore della musica libera, improvvisata, quasi quasi nemmeno schematizzata nella forma canzone, che questa volta addirittura mi ritrovo a scrivere partiture con parti per i violoncelli, i bassi, le viole, i violini, i sax, gli oboe, le trombe e quant'altro. Cosa hai provato, quindi, Claudio, a fare questo? Mi sono misurato con una cosa che non sapevo fare, non avevo mai fatto e ho avuto il piacere di imparare con l'esperienza e ho scritto questi arrangiamenti, ho aiutato in parte poi nella scrittura a correggere certi inevitabili svarioni da principiante come arrangiatore, dall'amico Massimo Orlandini, un disco registrato a Torino, certo. Mi ricordo, in uno studio torinese. Esattamente. Io ho amato moltissimo questo disco, soprattutto la prima traccia che ho quasi distrutta con la puntina, il disco ormai ai solchi, ho girato ancora un pezzo strepitoso secondo me, con una bellissima chitarra. Di Camerini. Sì, Alberto esattamente, Camerini, chitarra sì. Di Camerini. Hai quadrato il cerchio con questo pezzo secondo me, bellissimo. Sì, diciamo che ero uscito da un paio d'anni in cui pensavo che non avrei mai più scritto canzoni, di aver già detto tutto quello che si poteva dire, non per presunzione ma per sincera esaurimento dei modi e dei temi. Per questo 2 anni di musica elettronica, di ricerca esasperante per gli ascoltatori, esasperata, radicale, assoluta, e poi di colpo mi ritrovo nella forma canzone a scrivere canzoni in modo più tradizionale. Lo scenario ai tempi nel 70, dunque quello era il 77, sì, 77. Io avevo 26 anni, quindi ero ancora abbastanza un giovinastro, e comunque osservavo gli andamenti già preoccupanti di quel che appunto abbiamo già definito 3 volte questa sera, che allora si chiamava il movimento. Cos'era questo il movimento? Il movimento erano tutti i giovani che trasversalmente, senza distinzione di località geografica, di censo, ma piuttosto uniti da istanze culturali, utopie, speranze, impegno, in un minestrone che ai tempi faceva comunque, ha dato a molti anni, la percezione di essere un popolo che poteva riconoscersi al volo, poteva riconoscersi da come ci si vestiva, poteva riconoscersi da come si parlava, da dove si andava o da dove non si andava. Segni questi distintivi dei caratteri e delle individualità che poi con gli anni sono sfumati, perché non è più possibile riconoscere qualcuno oggi da come si veste, dai luoghi che frequenta, da quello che mostra apparendo, mentre allora era più semplice, perché certa gente con certi ideali e certe visioni mai si sarebbe vestita come altri che avevano ideali opposti, visioni e speranze contrastanti, non c'era pericolo di sbagliarsi, era una stagione quella dove tu potevi andare in qualunque città d'Europa e del mondo, cercare la zona cosiddetta alternativa della città, non conoscere nessuno, e di colpo, entrando in un locale pubblico, trovando la piazza giusta, trovarti collegato nel tessuto di quelli come te o simili a te, che significava comunque e sinceramente trovare se era necessario un posto dove dormire, trovare se era necessario qualcosa da mangiare, trovare soprattutto, e quello è sempre necessario, gente con cui parlare, confrontarsi, vivere, quello. Scambiare. Persino con un po' di fortuna magari amarsi. Non c'era ancora quella omologazione che poi è venuta negli anni, nei decenni a venire. Esatto. passato. In quegli anni, verso la fine degli anni 70, tutto ciò stava, ahimè, tramontando e finendo, e questa mia canzone, Ho girato ancora, voleva proprio restituire questo senso di disagio, dicendo: io ho girato, in effetti avevo girato molto negli anni precedenti, adesso ho girato ancora, sono stato ancora in giro e ho visto, c'è tutta una serie di cose che racconto di avere visto, che danno la misura della confusione dilagante, della perdita di identità culturale, personale, lo svanire degli impegni, lo sfumare delle ideologie progressiste, insomma un gran calderone di confusione che avrebbe poi portato nella storia del cosiddetto movimento al disastro degli ultimi festival di Parco Lambro, dove nel caos più totale si moriva di fuoco amico, tutti sparavano contro tutti e c'era un caos infinito praticamente. Ho girato ancora, allora sentiamo? Certamente. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Hai cambiato città per cercare di cambiare le storie, le strade, gli amici, il volere bucare. Dai pianto vicino a me quella sera, senza sapere chi fossi e nemmeno perché stessi lì ad ascoltare il tuo bisogno d'amore. Di persona che adesso da fuori per tutti sembra quasi normale, che lavora e guadagna una paga per mese, ma non ha un minuto di vita reale che le riesca a spiegare qualche scopo da avere, qualche meta da avere, da avere, da avere, da avere, da avere, da avere. Ho girato ancora, ho visto te, e mi hai detto che cambiato opinione sul fatto che insieme non si possa lottare per riuscire a cambiare questo grande fermento, sgomento, tormento, non è un movimento, anche se in una foto scattata un momento potrebbe sembrare che noi tutti insieme siamo un esercito grande, che può, se lo vuole, riuscire a cambiare, cambiare, cambiare, cambiare, cambiare, cambiare. Ma dentro le tasche degli stessi vestiti che tutti vestiamo, oggetti diversi ci dicono la vera realtà che viviamo. Le pistole, una lira, la siringa, la mala, la tessera, il fumo, la chiave di ferro, il fumetto di sesso, la vita, il pancetto, la bottiglia di whisky, del pane integrale. In un solo momento un esercito grande diventano gruppi, che guardando più in fondo si scoprono lontani, si scoprono diversi, si scoprono nemici, nemici, nemici, nemici, nemici, nemici. L'esperienza di tutti si muoveva in avanti a cercare davvero dei modi diversi, pochi anni passati e già circola in molti la rassegnazione, ma in molti di più, quasi tutti, c'è solo una gran confusione. Tanti dubbi su tutto, ci si chiede con chi e quale strada si vuole tentare, che finisca l'inganno di un mondo di uguali che sono diversi. Esplodano tutte, reali che sono, le contraddizioni, e si faccia una volta per tutte una scelta su quel che si vuole. Perché dentro le tasche degli stessi vestiti che tutti vestiamo, concetti diversi ci dicono la vera realtà che viviamo. Le pistole, la lira, la siringa, la mara, la tessera, il fumo, la chiave di ferro, il fumetto di sesso, la guida, il vangelo, bottiglia di whisky, del pane, la pistole, la lira, la siringa, la mara, la tessera. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Cosa vuoi aggiungere ad un pezzo del genere? Niente. Dobbiamo niente, dire una cosa, niente. Non si può tagliare, perché un pezzo così bello, un assolo così bello, non si può tagliare, Claudio, nemmeno fino all'ultima goccia si deve far sentire, secondo me. C'è poco da fare. Gentile. Senti, ricordiamo che amici in ascolto, che se qualcuno vuole fare delle domande o dei commenti può fare attraverso la mia pagina in Facebook, e all'occasione, se siete d'accordo, posso rispondere a due amici che hanno già postato qualcosa. Certo, certamente. Il primo, Malcolm, dice: grande album, si riferisce a questo fuoco, ultima frontiera prima del degrado. In effetti è esattamente quello che abbiamo anticipato. Credo che non tanto questo disco, ma quel periodo sia stato l'ultimo momento, gli ultimi momenti di sanità per la collettività dei, tra virgolette, giovani, che per qualche decennio hanno veramente pensato di potercela fare a portare nuove istanze nella società, nel mondo, nei modi, nei comportamenti. Alessandro Scrocco fa una domanda carina, un po' imbarazzante, ma insomma, dice: come hai fatto a restare figo nel tempo, no? Ora, non so che cosa intenda per figo nel tempo, ma che comunque mi sembra più un complimento che un insulto, quindi ti ringrazio, Alessandro. Che ti devo dire? Certo è che mi sento assolutamente, per rivisitare David Bowie, un principiante assoluto nella vita, nella professione, nella musica, nell'esistenza. Ne ho viste e fatte di parecchi colori e ancora mi sembra di aver capito assolutamente poco, e di mantenere la curiosità assoluta di cercare di capirci qualcosa nell'esistenza, ma anche proprio nei rapporti. Cioè, mi sembra ogni giorno di vedere tali paradossi, tali grotteschi teatrini, che veramente mi domando se ci stiamo impazzendo letteralmente. Quindi mi sembra che ci sia spazio per fare, per proporre, per ridisegnare proposte altre e diverse. Nell'occasione annuncio agli amici, se ce ne sono in ascolto, che ho appena finito di registrare un album di nuove canzoni rock che uscirà l'anno prossimo, nel 2011. Pronto, mi senti? Rock, super rock. Sono molto soddisfatto, mi piacerà molto l'anno prossimo tornare in giro a suonare per palchi davanti alla gente. Anche dalle nostre parti, chiaramente, Claudio, anche beh, noi saremo molto, molto contenti di ospitare subito questo album nuovo tuo. Figurati, certamente, io ho sempre avuto poi storicamente in Veneto molti amici, non so per quale motivo, ma ci sono regioni d'Italia che mi hanno sempre manifestato più affetto e calore di altre, o addirittura province italiane. Mi ero fatto una teoria negli anni 70, quando suonavo moltissimo in giro in tutte le regioni, e in Veneto avevo veramente un'accoglienza due spanne al di sopra di quella che ricevevo nelle altre regioni. Allora mi ero dato questa spiegazione. Ai tempi, non so adesso, mi confermerete voi, ai tempi il Veneto brillava per una decisa risonanza con i modi del cristianesimo, del cattolicesimo, non so ora se le vicende siano cambiate, più o meno in che misura. Ed essendo io comunque, per quanto stravagante e bizzarro, portatore di istanze, tra virgolette, spirituali, che a volte potevano anche, io aggiungo erroneamente, essere sovrapposte a quelle religiose, forse per questo mi sono rapinato un po' di simpatie in più nel tessuto sociale e culturale. Non lo so, com'è il Veneto? Sempre molto legato alla pratica del cristianesimo, del cattolicesimo. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, ancora legato molto a questo. Certo. Ecco, per cui voglio dire, essendo mai stato un bestemmiatore e avendo sempre parlato col mio linguaggio, ovviamente, di spiritualità e di sacro, forse questo non ha mai guastato il mio girare per il Veneto. C'è un legame, un filo conduttore. Ecco, vabbè. Volevo chiederti una cosa. tu hai sempre portato avanti un discorso anche di copertine. A Fuoco aveva una confezione meravigliosa, bellissima. Sì, certo, sì. Poi ai tempi, ricordiamo agli amici che ascoltano, si viaggiava per 33 giri, long playing, vinile, quindi lo spazio era veramente enorme a disposizione con le copertine. Ed era una vera soddisfazione lavorare al progetto grafico di un album. Ora, nelle dimensioni del CD, tutto questo è un filino ovviamente ridimensionato. Certo. La copertina di A Fuoco è stato un lavoro di sintesi fra me e Gianni Sassi, perché lui era il curatore assoluto dell'immagine Cramps. Il lettering, cioè i caratteri usati per i titoli, per i nomi degli artisti, in tutti i dischi Cramps sono sempre gli stessi, è quello che i grafici lo conosceranno, si chiama Courier, e lui ha quasi preso il copyright nell'uso di questo Courier, perché i lavori della Cramps erano riconoscibili immediatamente per l'uso sfrenato di questo Courier. Ho già detto della doppia lettura del titolo A Fuoco, cioè messa a fuoco in termini ottici di visione, oppure mandare a fuoco, incendiare in termini così di stanza rivoluzionaria, e la sintesi si è risolta in un'idea di Gianni Sassi, che era di sospendere una lente, una grande lente, sopra una mia fotografia. Sai, quando da ragazzini si gioca con le lenti, si prende il sole, lo si fa passare in, si concentra la lente su un pezzo di carta e il pezzo di carta prende fuoco. Avete mai fatto questi giochetti voi da ragazzi? Sì, sì, sì. Ah, ok. Sì. Per cui l'idea era più o meno quella. Non sono tanto distante dalla tua età, siamo là, Claudio. Ah, ok, vabbè. L'idea era quella, e difatti la grande lente manda a fuoco letteralmente, okay, fa bruciare la mia fotografia, la mia immagine. Esatto. Però in un angolino compaiono germogliano dei germogli di soia, quindi muore un'immagine, un'identità, ma c'è subito qualcosa che rinasce. Insomma, questa è la filosofia dietro l'immagine. Dentro un'immagine da in scope enorme, a doppia copertina, di me a casa mia a Milano, fra le chitarre e gli strumenti vari. Ti devo chiedere questo: nel nostro sito abbiamo riportato una vecchia copertina di Ciao 2001, quella chitarra acustica che c'hai, ce l'hai ancora, quella di Volo Magico numero 1? Se parli della chitarra di Volo Magico, non credo sia la stessa chitarra c'è sulla copertina di 2001. Sulla copertina di 2001 c'è una Gibson a 12 corde, esatto. Mentre sulla copertina di Volo Magico c'è una sei corde, sempre Gibson. La 12 corde non ce l'ho più, ahimè. La 6 corde nemmeno, ahimè. Ho molte chitarre, ma quelle due di quegli anni me ne rimane una soltanto, veramente una amatissima Yamaha, quando ancora facevano le chitarre di legno i giapponesi e non di semiplastica, del 1970, quindi vintage, che amo tantissimo, che uso suonare con accordatura aperta, cioè non in modo tradizionale. Ho capito. Ritornando al fuoco, io ho scelto un altro pezzo che è molto bello, una fotografia. Una fotografia è un pezzo dedicato a un mio caro amico, Gabriele Di Bartolo, fotografo che ha curato molte delle copertine dei miei dischi storicamente. Essendo amici noi da quando si aveva 13 anni, 14 anni, abbiamo veramente avuto occasione, io da una parte dell'obiettivo, lui dall'altra, perché fotografava da quando era ragazzino, di mettere insieme un archivio fotografico infinito. E ricordo che una volta, un pomeriggio, lui aprì una valigia intera di fotografie buttate lì negli anni, allora si stampava in camera oscura la fotografia, il cartoncino, il bianco e nero, il colore, insomma era tutta un'altra storia, non come adesso col digitale. E ci siamo buttati in un viaggio attraverso gli scatti suoi, fatti a me, nel corso di almeno 20 anni o giù di lì, ai tempi forse 10 anni più precisamente, e tornando a casa questa esperienza di andare a farsi un giro nella memoria attraverso gli scatti e le fotografie mi ispirò letteralmente questa canzone, che appunto è una fotografia ed è dedicata a un fotografo molto bravo, mio caro amico Gabriele Di Bartolo. Ok, adesso la sentiamo allora. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Basta guardare un momento una fotografia ed eccolo lì, stampato su carta, un pezzo di vita che molti presenti scorrendo hanno costretto a chiamarsi passato. Ed ho sempre pensato che lo spazio e i ricordi si dovesse negare, perché solo al presente la vita raccoglie il suo senso reale, che è fatto di gesti, che è fatto di volti, di storie, di luoghi, ma anche di rumori, di sapori, di odori e persino rumori, giusto come il passato, che è un presente che è andato. Basta guardare un momento una fotografia ed eccola lì, maestra di vita, insegnarci che oggi è diviso da ieri soltanto da quello che abbiamo vissuto. Ed ho sempre creduto che la vita che arriva non sia altro che quanto ognuno per quello che ha fatto e voluto si deve aspettare, proprio come pagare dopo aver comprato, proprio come essere certo che in fondo alla vita non si può che morire, proprio come essere vivi, proprio come essere vivi. Il futuro che avrò dentro quello che faccio, faccio le cose che cerco perché non le ho. Vivo da sempre cercando di non fare sbagli, sbaglio da sempre vivendo, continuo a cercare. Cerco il cose che cerco perché non le ho, vivo da sempre cercando di non fare sbagli, sbaglio da sempre vivendo, continuo a cercare, proprio come aver sonno e non riuscire a dormire per paura di perdere dormendo qualcosa deve accadere. Basta guardare un momento una fotografia ed eccolo lì, stampato su carta, un pezzo di vita che molti presenti scorrendo hanno costretto a chiamarsi passato, che è un presente che è andato. Thank you. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo ancora in compagnia di Claudio Rocchi su Blu Radio Veneto. Maurizio. Pezzo meraviglioso questo, Claudio. L'uso dell'orchestra, come l'hai? Sei riuscita a sistemare il discorso? Penso che si sente bene, si sente bene, non appesantisce, è ancora fresco nonostante che sia del 77, secondo me. Sì, difatti la caratteristica di quel disco appunto è l'orchestra, che è un po' in gesta, se vuoi, no? Non è la musica saltellante improvvisata di altri album miei come Essenza, dove non si capisce mai dove si va a parare. Questa è strutturata, ovviamente per scrivere arrangiamenti bisogna avere tutte le battute precise, le partiture precise, però è un altro linguaggio, un altro modo, al momento, ai tempi è stato interessante viverlo, è stimolante. Cioè, io, se siete d'accordo, risponderei ad altri amici che hanno scritto su Facebook, ricordando a tutti che domande per questa diretta possono essere postate nella mia pagina di Facebook, Claudio Rocchi. Allora, Massimo Filipponi dice che si riconosce nel discorso fatto sui segni che caratterizzavano qualche decennio fa i rappresentanti di certe alternative, tra virgolette, culturali, e di modi anche, ora tutto un po' più nascosto ed è difficile riconoscersi fra simili. E poi la domanda, dopo tutta un'analisi sui tempi che furono, la domanda di Massimo è: perché non ho mai pensato di fare della musica veramente commerciale, in modo da impormi sul mercato in modo più deciso e più importante? Allora, la risposta, Massimo, grazie per aver scritto, è che ai tempi, come ricorderai, noi figli e padri dell'utopia più assoluta, portatori di istanze libertarie, anarchiche, rivoluzionarie, progressiste, cioè il commerciale, tra virgolette, certi modi erano visti come la peste, impraticabili, invivibili. Mai sarei andato, per dirti, al Festival di Sanremo, mai sarei andato in un programma di sabato sera in prima serata, perché quel mondo che noi definivamo di plastica era esatto contrario di quello in cui volevamo vivere, ed era invece precisamente quello che volevamo trasformare e cambiare. Quindi era ovviamente una posizione per molti aspetti ingenua, integralista, però sicuramente sincera. Alla maniera di Abby Hoffman, ricorderei un pezzo della sua famosa esternazione: eravamo ridicoli, eravamo esagerati, eravamo grotteschi, eravamo folli, ma avevamo ragione. Ecco perché, Massimo, avevamo ragione. Poi ancora abbiamo Carlo Giuffrida, che si riferisce alla mia unica esperienza da regista cinematografico con il lungometraggio Pedra Mendalsa, un mio film girato nel 2003. E poi in circolazione in DVD, non è mai uscito nelle sale perché non ha trovato una distribuzione, essendo affatto commerciale, appunto, per seguire il discorso, ma è disponibile in DVD. Caro Claudio Giuffrida chiede se penso mai che ripeterò un'esperienza del genere girando un altro film. Film del quale peraltro sono, oltre che regista, anche autore. Non attore, non interprete, ma autore, e anche autore della colonna sonora. Claudio, non lo so, devo dire che l'esperienza di girare un lungometraggio è stata un'esperienza straordinaria dal punto di vista tecnico, perché lì ho imparato a perfezionare proprio l'uso delle tecniche digitali. Il film me lo sono tutto post prodotto, montato in digitale, in Final Cut, ho fatto la colonna sonora, insomma ho registrato, ho preso piena padronanza dei linguaggi audiovisivi. Tra l'altro il film è pieno anche di fotografie, per cui abbiamo integrato molto le tecniche fotografiche con le tecniche videografiche. Le foto erano di Gabriele Di Bartolo, appunto precitato, e quindi è stato un grande esercizio di artigianato digitale. Non lo so, alla fine è risultato molto impegnativo, a giudicare dai risultati in termini proprio di riscontro di ritorno è stato esageratamente più alto l'investimento piuttosto che quello che è tornato indietro. Se però vogliamo dare un valore all'esperienza acquisita nel governare con, consentitemelo, maestria ora le tecniche digitali di post-produzione sia audio che video, allora è stata un'esperienza importantissima. Andrea Buggin poi da Legnano mi chiede se mai passerò a suonare a Legnano, spera che io passi a suonare a Legnano. Andrea, cioè, l'anno prossimo con fuori il mio nuovo disco, che se non cambio idea in alto, penso di passare dappertutto. Bene, bene. Ha già il titolo questo disco, Claudio? Oppure... Sì, per ora il titolo di lavoro è In alto. Ah, poi okay. Non so. Spesso cambiano 3 o 4 volte i titoli in corso d'opera. Per ora è quello. Per ora è questo. Passiamo adesso, io faccio salto al 1979, il secondo disco per la Cramps, che non c'è niente, non ce n'è per nessuno. Tu non hai, ce n'è per nessuno. Sì, c'è scritto, lui è scritto all'epoca. Fatto una, nel tuo sito hai scritto un album di soglia, l'ultimo prima di lasciare per un lungo periodo il mondo della musica professionale. Dopo sette album hai deciso di fare questo disco, un disco un po' particolare, ma un disco che ami particolarmente, vero? Sì, non ce n'è per nessuno, intanto è un'espressione, non so se da voi abbia qualche significato, ma ai tempi a Milano non ce n'è per nessuno era come dire siamo meglio di tutti. Praticamente, ecco, sì. Non ce n'è per nessuno, vuol dire no. Proprio non temiamo paragoni, no? Ai tempi anche si diceva, per dire come stai, si diceva uè, come siamo messi, no? E la risposta gergale era spesso non ce n'è per nessuno. Con questa premessa squisitamente semantica, diciamo che a me è piaciuto molto fare quel disco. Intanto è un disco condiviso nella produzione, l'unica volta che ho condiviso la produzione con qualcuno, che di solito ho sempre prodotto tutti i miei album. Prodotto artisticamente significa appunto curare in studio la registrazione, i suoni, tutte queste cose. Quell'unica volta ho condiviso l'esperienza con Zoffani, che è stato il chitarrista degli Area, appunto, e anche un amico personale. Abbiamo insieme condiviso molta ricerca sulla musica elettronica, i sintetizzatori, tutte le cose, ma lui è sempre stato sostanzialmente poi dall'inizio un ottimo chitarrista rock, e molte delle chitarre di quel disco sono suo, sia acustiche che elettriche, oltre che mie. E quindi una produzione fatta da Ortofani, un disco che amo perché al di là di tutto per me sono canzoni più rock, un po' più sciolte, insomma. L'esperienza dell'anno precedente, A Fuoco, abbiamo ascoltato 2 pezzi, è quella che non ho esitato a definire un po' ingessata, costretta nella struttura di arrangiamenti che impongono un rigore proprio ritmico, metrico, formale, mentre invece la canzone rock ovviamente lascia più spazi. Quindi mi sono sentito un po' alleggerito dopo l'esperienza dell'anno precedente, da questa più leggera. Che pezzi avete scelto? Io ho scelto il pezzo iniziale, Camminare, Claudio. Camminare. Tra l'altro su Camminare posso aggiungere, certo, una notizia più recente. L'estate scorsa un gruppo di amici ha messo in piedi un'esperienza che è battezzata Gemito. Non gemito in senso di pianto, rantolo, così o via tristeggiando, ma gemito inteso come Genova, Milano, Torino. Ah. Cioè gli amici si sono fatti una camminata infinita da Genova a Milano a Torino per un vezzo così podistico e per il piacere di attraversare i tessuti agricoli, urbani, piccoli paesi, piccoli centri, le frazioni, le città. Un'esperienza da camminatori. E che ora è stata riportata in un volume che è in uscita in questi mesi, che sarà presentato a breve, per la quale mi è stato poi chiesto di scrivere una presentazione. E io appunto non ho potuto fare a meno di ricordare che con il camminare avevo avuto qualcosa a che fare nella vita. Questa canzone che andiamo a ascoltare si chiama appunto Camminare, e il ritornello principale dice: volere non è volare, semmai piuttosto è camminare. L'ascoltiamo allora. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. modi per fermarmi, sempre poi. Le cose con il tempo si spiegano da sole, nel senso che è più facile capire. Io voglio, lo scopo è sempre cercare, volere non è volare, semmai piuttosto è camminare. Io voglio, lo scopo è sempre cercare, volere non è volare, semmai piuttosto è camminare. Camminare, camminare, camminare, camminare. Radio Sera. Le 22 spaccate in questo istante su Blu Radio Veneto. Siamo sempre all'interno di Blu Radio Sera, il contenitore della nostra serata, e questa sera siamo giunti alla terza parte dell'intervista, della chiacchierata insieme a Claudio Rocchi. Maurizio. Claudio, ci sei? Ci sono. Ci benissimo. Stiamo parlando quindi di questo album, non ce n'è per nessuno. Come mai secondo te è finita poi l'epopea della Cramps totalmente? Beh, è finita perché è sostanzialmente, come si accennava prima, sì, è finito quel momento storico, è finito quello scenario complessivo, sociale, culturale, è finito il movimento, è tutto un po' naufragato, travolto fra alcuni illustri tradimenti e traditori, come piace dire, e altri dispersi, altri morti, altri confusi, un vero caos. Storicamente si potrebbe teoricamente registrare la sconfitta di quelle istanze, di quei modi e tutto quello che, diciamo, dalla fine degli anni 60, dall'inizio anzi degli anni 60, fino alla metà degli anni 70 è stato un trilustro, cioè un quindicennio di, alcuni preferiscono dire lotta, altri di novità, altri di svolta, altri di progresso, altri, ognuno lo chiama come vuole. Tutto si è fermato, perché soprattutto mi piace sottolineare questo tra gli altri punto di vista e di vita, come mi piace dire. Alcuni secondo me hanno tradito la grande, perché molte delle migliori intelligenze che avevano attraversato le esperienze più importanti, e non soltanto da testimoni, ma spesso da protagonisti, da leader, non hanno trovato di meglio poi che, per dirla come si direbbe in un fumetto, vendersi al nemico, portare l'intelligenza, le visioni, le intuizioni nei linguaggi del mercato, del marketing, al soldo di qualche multinazionale che era stata fino a qualche anno prima anche ingenuamente e stupidamente identificata con il nemico, no? Per cui tutti sparpagliati, molte delle migliori intelligenze disperse al soldo del nemico cosiddetto, e vede che il quadro del fumetto torna. Poi alcuni, ahimè, lungo la strada hanno seguito incidenti di percorso gravissimi, come quelli che sono cascati nelle tossicodipendenze, nelle droghe pesanti, nell'eroina, nella morfina, nella cocaina, nelle anfetamine. Molti sono morti fisicamente, altri sono morti intellettualmente. Non bisogna dimenticare che ci sono stati parecchi caduti sul campo di questa che non ha mai voluto essere una guerra, per molti perlomeno, ma che di sicuro è stata una lunga e estenuante battaglia con la situazione. Ecco, i migliori io li ho sempre considerati quelli che si amavano definirsi situazionisti, che con un piglio quasi zen, taoista, nelle situazioni non dimenticavano che avrebbero potuto trasformarle con un guizzo creativo, spiazzando con un gesto leggero ma significante, piuttosto che con una bomba o con un pugno. Ecco. Certo. Concludiamo il discorso su questo disco. Io ho scelto l'ultimo pezzo, Il cielo si fa blu. Ah sì, questo è un vero e proprio delirio che risente un po' delle atmosfere da cui uscivo recenti di musica elettronica, perché c'è solo una tastiera elettronica sotto, certo. Ed è veramente un flusso di coscienza, una specie di, è più parlato che cantato. Io che ricordo benissimo, torno a casa a Milano in un giorno d'estate da un lungo viaggio in auto, suonando e facendo il musicista, come immagino i rappresentanti o si fanno migliaia e migliaia e migliaia di chilometri girando, suonando da una città a un'altra continuamente, a volte estenuanti il rapporto con la strada, l'autostrada, gli alberghi, i ristoranti, tutto ciò. Quindi tornando da una lunga parentesi dinamica, on the road, sulla strada, sono riflessioni di una giornata di estate milanese. Avevo una gatta a casa, avevo gli oggetti, delle piante, ma proprio un guardarsi intorno, un filino stremato a osservare quanto ero veramente spossato. L'ascoltiamo? Ascoltiamo un momento. Okay. Il cielo si fa blu. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Più di 300 chilometri, 4 ore di viaggio, le piante domandano acqua, io ci devo pensare, un occhio alla posta non è neanche arrivato, l'assegno che aspetto di questi che non pagano mai, mai, mai, che non pagano mai. Adesso hanno pagato, ma quando ho scritto la canzone per mesi non hanno pagato. La gatta è contenta, il suo cibo è finito, ma io sono arrivato e stavolta può ancora mangiare. Dolce stella, piccola rossa. E adesso che ho visto la sete e la fame, la doccia è un momento di corpo bagnato, un pezzo di pace. In realtà è un vero piacere. Trovato il cielo, sì, fa blu. Forse in cucina, l'acqua nella teiera, le foglie più chiare, le spezie più dure, l'aroma che resta è la cosa migliore, io mi faccio del tè. Intanto guardo fuori. Il cielo, sì, fa blu. Ho fame, non ho fame, non lo so nemmeno. Potrei anch'io mangiare qualcosa e inventarmi del cibo. La voglia più vera che ho è parlare con qualcuno. Saprei anche con chi. Con chi? Non lo so. Fatti avanti il tuo turno. Non ho niente da dire, voglio solo ascoltare. Se ti riesci incomincio a parlare di una cosa qualunque. Fai un disegno di voci, io lo guardo ascoltando ma piano. Ti prego non essere veloce. La sirena sta urlando, un allarme impazzito, forse un ladro fregato, di certo un padrone svegliato. Chi possiede la vita, chi è che sa quanto vale? Hai tu visto il principio di un po', me lo sai raccontare, me lo sai raccontare. Il cielo. Considerazioni allucinate, deliranti, nel tardo pomeriggio estivo. Qui si è perso il silenzio, poi si è perso lo spazio, poi si perdono gli altri, e alla fine chi è perso sei tu. Cioè io. Il cielo, sì, la blu. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora con Claudio Rocchi su Blu Radio Veneto all'interno di Blu Radio Sera e ovviamente io passo la parola a Maurizio. A te Maurizio. Claudio, finita l'esperienza con la Cramps, c'è stata una lunga altra esperienza, altri orizzonti musicali, altro modo di vivere, altri orizzonti di vita. Dal 79 al 93 mi pare. Sì, dal 79 al 93 ho avuto il buon gusto di uscire dal mondo, tra virgolette, cioè di farmi frate letteralmente, cioè per la verità più che frate farmi manco induista, ho preso i voti, ma ho lasciato la professione di musicista, la vita nel mondo cosiddetto, alla maniera di un improbabile... È stata tale linea. Potremmo anche ascoltare qualcos'altro, sì, intanto. Esattamente. Se mi dai 2 secondi di tempo, io ti faccio sentire qualcosa. Sì, esattamente. Sempre da questo album che vogliamo fare ascoltare, che è Un Gusto Superiore, un album del 1980, che fa parte del periodo, come ha detto ovviamente Claudio Rocchi, di allontanamento dalla musica tradizionale per portarsi a una musica un po' diversa, a un mondo un po' diverso, decisamente. Lontano da determinati orizzonti tradizionali. Infatti prima con Claudio in privato, diciamo, abbiamo scelto il pezzo. Abbiamo scelto la traccia numero 2, o sei parte del problema o sei parte della soluzione. Ce l'ascoltiamo. Intanto ecco. Vediamo di ripristinare il collegamento con Claudio. Svegliato ed ho visto per certo che stavo dormendo. Nel letto passavano macchine, uomini, il sole e la luna. Viaggiavo esseri eterni, miliardi di estati abbiamo visto, miliardi di inverni. Mi sono guardato e sono stato sicuro di quello che sono, come essere su un carro tirato dai sensi che la mente guida. Io sono il passeggero, il viaggio è tranquillo, se il cocchiere è sicuro, questione di controllo. In un'altra posizione, o sei parte del problema, o sei parte della soluzione, ma c'è modo di mettersi in un'altra posizione. Coinvolti, incoscienti, e la truffa va avanti. La soluzione più semplice e chiara è cambiarsi la vita. Se non è facile, tentare si può. Il nome di Dio, Krishna, è la chiave che ho. Mettersi in un'altra posizione, ma sei parte del problema, sei parte della soluzione, non c'è modo di mettersi in un'altra posizione, ma sei parte del problema, sei parte. Abbiamo ripristinato il collegamento con Claudio Rocchi e nel mentre abbiamo ascoltato o sei parte del problema o sei parte della soluzione, la traccia numero 2 del suo disco Un gusto superiore. Maurizio. Claudio, ci sei? Allora parliamo di questo periodo dal 79 al 93. Dobbiamo sottolineare questo album ha una storia particolare, molto interessante. I 3 milioni o i 2 milioni di copie che ha venduto. Ma è ai confini della realtà. Adesso non so da dove tu abbia tratto. Da dove hai scritto te dal sito? In verità mi sembra che i milioni siano uno e non due. Allora abbiamo esagerato. Che non sono pochi. Che non sono pochi. No, non sono pochi assolutamente. Anche perché non ho mai venduto così tanto in nessun altro disco fatto nella vita. Un milione di copie sono un milione di copie. Soprattutto a royalties zero. Esatto. Cioè senza guadagnarci un centesimo. Perché ai tempi, prima che cadesse la linea, lo stavamo dicendo, e poi anche per chi fosse interessato nella prima puntata di queste nostre tre, che è comunque ascoltabile on demand nel vostro archivio, abbiamo credo già parlato ampiamente di questo periodo dove ho fatto questa scelta di abbracciare il monachesimo hindu. Sono diventato un monaco induista, per quanto possa apparire stravagante, questo è, tanto è. Per 15 anni ho preso i voti, ho fatto una vita cosiddetta così spirituale, tra virgolette, facendo anche carriera, devo dire, perché sono entrato come novizio e poi negli ultimi 7 anni ho fatto il leader di una grande comunità, il padre priore sostanzialmente, con tutti gli impegni che ne derivano di ordine pratico, gestionale, o psicologico e spirituale. Nel contempo, insieme all'amico Tofani, che ha condiviso con me questa esperienza, abbiamo fatto sia una stazione radio, per la verità un network radiofonico che ai tempi aveva 7 studi in Italia che contribuivano, anche a Padova c'è, in onda quotidiana, e 64 ripetitori proprio dal Veneto alla Sicilia. L'unica regione che non era coperta dal network RKC, Radio Cristian Centrale, era la Sardegna, per il resto eravamo dappertutto. E per mantenere, soprattutto per mantenere, soltanto per mantenere le varie attività della nostra radio, del network e della comunità che io dirigevo, io e Tofani regolarmente, puntualmente, facevamo dei dischi di 33 giri, essendo entrambi professionisti che venivano dal mondo della musica. E questo che abbiamo firmato insieme, Un gusto superiore, appunto, da cui abbiamo ascoltato la canzonetta O se parte il problema, o se parte la soluzione, che peraltro ripropone una puntualizzazione assai precisa e difficilmente smentibile. Cioè, ovunque tu ti voglia collocare in qualunque scenario, ammesso che ci sia un problema, non c'è una terza posizione, o si lavora per accrescerlo o per decrescerlo, quindi o dalla parte del problema o dalla parte soluzione, sottoscrivo ancora a decenni di distanza. Quindi con Tofani, dicevamo, abbiamo prodotto vari dischi che venivano distribuiti a mano, non nei negozi, non in nessun modo, non per corrispondenza, non contrassegno, ma proprio una distribuzione militante dei membri della comunità che andavano in giro per strade, autostrade, porta a porta, a bussare nelle case degli italiani letteralmente, e a offrire queste produzioni in cambio, insieme a libri anche che producevamo, insieme a oggetti vari d'artigianato, producevamo succo d'uva ad esempio, avendo delle vigne, olio d'oliva, avendo dell'olio degli oliveti, e in una sorta di esperienza protobiologica spirituale, e nel offrire questi prodotti che non erano in vendita, rigorosamente non in vendita, chiedevamo dei contributi, delle offerte. Per cui in questo modo, di quest'album, abbiamo lasciato nelle case degli italiani 1 milione preciso di copie. Poi abbiamo fatto diversi altri dischi che non sono mai arrivati al milione, ma si sono mossi tra un minimo di 350.000 e un massimo al secondo posto in classifica di 850. Quindi veramente distribuzioni enormi, che ai tempi, anche quando il mercato discografico era vivo e vegeto, non come adesso, erano comunque cifre da primi in classifica. Sì, esattamente, adesso se li sognano queste cifre. Per riguardo l'esperienza musicale discografica nel periodo del mio monachesimo hindu. Ho una serie di amici a cui voglio brevemente rispondere, che hanno postato delle domande in Facebook, e lo ricordo ancora che chi fosse interessato può postare delle domande nella mia pagina in Facebook, e credo che sarà l'ultimo giro, il prossimo, perché poi la trasmissione volge al termine. Carlo Alberto Turrini mi chiede se il prossimo album, cui ho accennato, In alto, che uscirà l'anno prossimo, tratterà temi spirituali, sociali o che altro. Carlo Alberto, ti saluto, buonasera. Sono io nel presente, con i piedi decisamente per terra, a prendere la ricorsa, cercando di correre abbastanza forte come fa un aereo sulla pista di rollaggio per decollare. Quindi piedi per terra, ma come mi sono accorto molti anni fa, quando si cammina con i piedi per terra la testa rimane letteralmente e inevitabilmente nel cielo. Per cui una sintesi fra piedi per terra e testa nel cielo credo che abbracci i contenuti di questo nuovo lavoro, che è molto ispirato anche grazie a una fortunata stagione d'amore che vivo da parecchio tempo, gratificato e illuminato da una splendida storia, che come si sa solletica la vena creativa degli artisti. Da questa storia non solo è uscito questo disco, ma uscirà anche l'anno prossimo un libro scritto a quattro mani con la coprotagonista della mia storia d'amore, questo per rispondere a Carlo Alberto Turrini. Malcolm mi chiede, non ce n'è per nessuno l'album che abbiamo ascoltato poco fa, era un album di passaggio, prelude all'esperienza spirituale Hare Krishna anche successiva? No, per la verità no, diciamo che proprio non prelude affatto, ero in un altro periodo, in un altro momento e stento a trovare punti di collegamento. Caro Giuffrida mi dice, Rocky sei un alchimista, l'oro resta sempre oro, ti ringrazio Giuffrida, e non si può negare, l'oro resta sempre oro, ma soprattutto la cosa interessante nelle tradizioni alchemiche, come tutti sapete e mi insegnate, è prendere il ferro e trasformarlo in oro. Nella metafora alchemica, psicologica, spirituale, il ferro è l'ignoranza e l'oro è la conoscenza, ovviamente. Marco Rigazzo mi chiede cosa ne penso del panorama musicale contemporaneo. Io, come sempre, i miei autori e musicisti. Per fare dei nomi, giusto per non fare dei nomi, tra quelli che apprezzo di più, tra i gruppi, Marlene Kunz, After Hours. Ora c'è un'esperienza di una specie di supergruppo nato fra i Marlene Kunz e Gianni Maroccolo, produttore e membro storico di gruppi come CSI, insieme al DJ scozzese Howie B, hanno fatto un collettivo musicale che si chiama Beautiful, che se non conoscete vi invito ad andare ad investigare, è un'esperienza di ricerca musicale assoluta, ci sono giusto un paio di canzoni in questo CD, il resto è ricerca musicale, ma molto interessante. E poi After Hours, ad esempio, e poi Bugo, no? Un caro amico musicista rocker abbastanza libero, anzi direi proprio libero e sincero nell'ispirazione. La musica commerciale non mi è mai interessata molto e non mi interessa nemmeno adesso. Vedo dominare la scena musicale contemporanea i famosi talent shows come X Factor e altri, e di questi quello che faccio fatica a reggere, per quanto interessanti e anche significanti di questo come testimonianza di un periodo, spiace molto che a questi ragazzi o gruppi non sia consentito mai di essere autori, ma soltanto interpreti, visto che spessissimo molti di loro hanno una loro vita musicale creativa. Credo che lasciare spazio a chi fa della musica per presentare il proprio mondo, piuttosto che camaleonticamente, magari con perizia professionale, con virtuosismo, vestire i panni di quello, di quell'altro ancora, attraversare i generi, gli stili. Poi a un certo punto, io non so come la pensiate voi, il bel canto è una bella cosa, chi sa cantare bene ha un talento che è importante, ma a me onestamente non è mai più di tanto importato che il punto di intonazione sia perfetto, piuttosto la migliore musica, quella che mi ha cambiato la vita sempre, è musica nata dal cuore, dall'ispirazione, da artisti che simile o più ai poeti per quanto hanno scritto, a poeti musicali, ecco, che a puri interpreti cantanti. Ecco, questi talent shows credo che abbiano questo limite, non capisco nemmeno per quale motivo al mondo. Poi, no? A voi in studio. Ok, allora passiamo a un album che è una specie di raccolte, hai fatto un lavoro di ricerca, si chiama I Think You Heard Me Right, del 1996. Tu hai scelto un flash, un pezzo di 1 minuto e 40, mi pare. 1 minuto e 17. 1 minuto e 17. Come mai quel pezzo là, Claudio? Sì, dunque, intanto questa, a questo punto mi è stato chiesto di andare a pescare negli archivi miei e ho messo insieme una serie di outtakes, si chiamano così in esatto, gergo, cioè i pezzi che restano fuori dai dischi e comunque di inediti, e ho messo insieme una compilation di questi pezzi mai pubblicati in diverse fasi, in diversi momenti, quindi ci sono alcune canzoni, ci sono anche dei frammenti di musica elettronica o del periodo così 75-76 quando facevo ricerca musicale senza parole. Il disco si chiama I Think You Heard Me Right, in inglese significa penso che tu mi abbia inteso, mi abbia ascoltato bene, ed è una citazione da Bob Dylan, è il verso di una canzone di Dylan. Questo che ho scelto, Walking Antique, anche doppia risonanza, e anche questo, in una, non ricordo più quale veramente, ma in una canzone di Dylan c'è questa lei che procede con un andamento come se uscisse dal tempo, Walking Antique, antico, di antica maniera, di antica data. Il pezzo che appunto ho scelto, Walking Antique, è un, se non ricordo male, un frammento strumentale molto discreto e per me anche suggestivo. Lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Le tracce proseguono, quella che è partita o che non si è mai fermata dopo Walking Antique è Sole. Maurizio. Ok, Claudio, prima abbiamo scelto questa antologia un po' particolare, questi outtakes come tu hai detto, però io dovrei arrivare al tuo grande ritorno, dove hai riunito nel 1994 con l'album Claudio Rocchi i tuoi amici milanesi e hai fatto un disco molto bello, molto ispirato secondo me. Sì, dopo 15 anni di monachesimo induista nell'improbabile ricerca della santità, mi sono svegliato un giorno pensando che avevo chiuso l'esperienza, ringraziando tutti e mollando il colpo, me ne sono tornato nel mondo letteralmente. Ricordo distintamente l'effetto che mi ha fatto dopo 15 anni di totale non assunzione di intossicanti, per intossicanti intendo dire birra, vino, tè, caffè, proprio nella regola di questo monachesimo indù non c'era l'uso di intossicanti. Ho fatto una birretta e mi ricordo l'effetto largamente psichedelico di questa birra con la quale ho celebrato il ritorno nel mondo. E il ritorno nel mondo l'ho celebrato anche ovviamente ricominciando a fare il mio lavoro, quello che ho sempre fatto, fare radio. Ho ripreso a fare Radio Rai, mi ricordo che appunto certo. Nel 94 conducevo uno spazio un pomeridiano su Radio 2 Rai che si chiamava Margherita, storia e sogni. Era una sorta di viaggio musicale nelle musiche della mia vita, con degli ospiti in studio, tutti musicisti che dovevano scegliere, buttare giù dalla torre gli uni o gli altri. E poi ancora un'importante stagione durata 2 anni con un bellissimo programma radio al quale sono molto affezionato, che feci con un gruppo di amici, Franco Mattelli e parecchi altri, si chiamava Radio Starship, la musica dalla nave delle stelle, un trisettimanale di 2 ore la sera su Radio 2, quindi sono tornato a fare radio, sono tornato a scrivere sulle riviste musicali e altre riviste, allora scrivevo su una rivista molto bella che non esiste più purtroppo, che si chiamava Olis, di stampo olistico, filosofico, naturale, naturistico, naturalistico, e sono ritornato a fare musica. Nel ritornare a fare musica, dopo 15 anni di assenza dalla scena professionale, ovviamente ho richiamato un po' di amici, Lucio Fabbri, Alberto Camerini, Walter Calloni, Paolo Donnarumma, Paolo Tofani, Mauro Pagani, Paolo Panigada, che suonava con Elia Storietese in sax, che al momento ci ha lasciato il pianeta, e altri, Walter Maioli, Donatella Barti, e tanti altri, è venuto fuori un disco molto ben fatto, direi proprio, che è una produzione eccellente, condivisa con Lucio Fabbri, di canzoni. Di quell'album ne ricordo 2 in particolare, oltre a Tutto passa, che era un po' la title track, che non sentiamo questa sera, ricordo una canzone molto ispirata in duetto con Alice, che sentiamo stasera, che è La nostalgia, e un'altra canzone invece che io amo particolarmente da quell'album, con la collaborazione dell'ottimo musicista blues milanese, fisarmonicista, armonicista Fabio Treves, famoso leader della Treves Blues Band, che si chiamava Proviamo un po' a scioglierci. Non so cosa volete ascoltare. Mettiamo su sia quella di Alice sia Proviamo un po' a sciogliersi. Ah, ok. Ok, proviamo. Beh, cominciamo con Alice allora. Umana nostalgia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che insieme stanno uscendo dagli schemi, che sanno fare a pezzi porte chiuse soltanto per trovarsi più vicini, che è solo la paura di soffrire a trasformare in pianto i paradisi, il suono che si perde nel rumore, siamo più capaci di sorrisi. Intanto viaggeremo senza scampo, puntando solo a ciò che non finisce, e gireremo in lungo, in largo il tempo, in cerca dell'abbraccio che ci unisce. È questo che ci spinge da più vite ad essere completi e definiti, è questo che inseguiamo dall'inizio, nel sogno di momenti illimitati. Ora mi sembra chiaro, saranno corse i nostri passi, seguendo i riflessi dell'anima. Io amo gli uomini e le donne accese, che insieme stanno uscendo dagli schemi, che sanno fare a pezzi porte chiuse soltanto per trovarsi più vicini. Ora mi sembra più chiaro, saranno corse i nostri passi, seguendo i riflessi dell'anima. Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo agli sgoccioli di questo terzo appuntamento insieme a Claudio Rocchi. Maurizio. Claudio, il nostro lungo viaggio sulla tua musica, nella tua musica è finito, però c'è l'appuntamento per il 2011 col nuovo album. Vabbè, certo. Ce l'abbiamo fatta. Forse a trascrivere tutte queste ciance che abbiamo fatto viene fuori una biografia. Ecco, sì. Pensaci. Assolutamente, sì, 2011 ovviamente appena sarò pronto non mancherò di segnalarvi la novità. E, al volissimo prenderei le ultime domande raccolte su Facebook, abbiamo Minatore Interiore che fa un lungo intervento, ma in sostanza dice: per chi si mette a fare musica oggi, che sia un gruppo, che sia un autore, un cantautore, c'è spazio per essere liberi o bisogna per forza uniformarsi a certi modelli che sembrano intoccabili oltre che irraggiungibili, di mostri sacri, per cui sembra sempre che uno debba somigliare a qualcun altro o perlomeno rientrare nei linguaggi su strade già battute? Direi proprio che è esattamente il contrario, che non credo che nessuno debba accontentarsi mai di meno che della libertà nell'espressione cosiddetta artistica, ci mancherebbe altro che uno si metta a programmare qualcosa. Purtroppo c'è da dire che spesso è difficile affrancarsi anche inconsapevolmente dalle influenze, e per cui spesso senti qualcuno e dici, sembra qualcun altro, no? Questo non è ovviamente, credo, un dato, un punto di merito. Quando ascoltando qualcuno tu non puoi altro che dire, è proprio lui, ma al limite puoi sempre dire che palle, è sempre lui, no? Sempre se stesso, ma perlomeno ha un linguaggio identificabile. Quindi credo, Minatore Interiore, non so come ti chiami tu veramente, che al contrario di quello che dici sia assolutamente da perseguire la libertà nell'espressione, che poi tutto questo sia poco consentito dall'industria discografica, dai produttori, ok? Quello è un altro discorso, che peraltro non conta più molto perché, come mi insegni, il mercato discografico è veramente stramazzato, morente se non già morto e sepolto. È vero che si fanno dischi ancora, per fortuna, ed è vero che ancora c'è qualcuno che ha la fortuna di venderne in numero considerevole, però per la stragrande maggioranza degli artisti, i musicisti, il disco ormai non è altro che un'occasione per segnare una tappa di percorso, presentare una produzione nuova che auspicabilmente porti l'occasione di fare dei concerti, di andare a suonare in giro. Gli amici musicisti che non sono gratificati da vendite milionarie o anche a centinaia di migliaia di copie riescono a vivere da musicisti perché suonano, perché fanno le date, perché c'è un circuito, per fortuna ancora, che consente di andare in giro a suonare. Quindi in quel senso direi non preoccupiamoci troppo di sentirci limitati nella libertà artistica, anzi il contrario assolutamente. Massimo Regazzo ancora domanda: cosa ne penso del percorso che continuano a fare gli amici della premiata Forneria Marconi? Penso bene, sono contento che siano in pista, so che da un anno almeno, forse anche di più, hanno preso a riproporre fedelmente la loro esperienza di amici e accompagnatori, oltre che produttori, anche di certe esperienze musicali dell'ottimo Fabrizio De André, e stanno suonando il suo repertorio, perlomeno se non è cambiato qualcosa recentissimamente, lì li ho lasciati e penso che facciano bene. Tra l'altro loro hanno registrato dischi con De André e non fanno altro che riproporre le loro versioni dei pezzi di De André. Franz, il batterista, canta e mi sembra che ne abbia i numeri. Detto ciò, per tornare al disco mio del 94, Claudio Rocchi, come avevo accennato, se facciamo a tempo a sentire un altro pezzo, è quello che vede uno splendido assolo all'armonica del maestro Fabio Treves, bluesman italiano di fama internazionale. Mi piace questo pezzo, anche perché proviamo un po' a scioglierci, era 1994, uscivo dall'esperienza quindicennale di monachesimo indù, proviamo un po' a scioglierci, e a chi lo dico? Lo dico a me stesso, ovviamente, lo dicevo a me stesso, oltre che a una mia coprotagonista di quel quadretto di allora. Ma proviamo un po' a scioglierci, per sempre, l'invito a, se possibile, a non essere tesi, ad essere per quanto possibile rilassati, aperti, perché essere rilassati consente un ritmo respiratorio più largo, con un periodo più largo, meno affannato, e una buona respirazione produce una buona circolazione, una buona circolazione produce, ottimizza gli equilibri fisici, psichici, psicologici, della chimica cerebrale. C'è tutto un lavoro di somma, per cui è assolutamente meglio essere sciolti piuttosto che tesi, rilassati piuttosto che stressati. Ecco. Ecco. È tempo di saluti prima di sentire l'ultima canzone. Allora intanto ciao ciao con la manina a tutte le amiche e gli amici che ci hanno sopportato per tre lunghe puntate. Ricordando che chi le avesse perse le può ritrovare nel vostro sito. Com'è sì. Il link preciso, dite voi? Bluradioveneto.it, poi da lì c'è il link comunque. Ecco, perfetto. Voi ottimi conduttori, pazienti quasi storiografi di questa lunga cavalcata fra vita e musica, che è partita nel lontano 1968, e quindi ormai è dunque, fatemi fare un po' di conti, 68, 98, 40, 40, 30, 2002. 2008 sono 40, 2000, sono 42 anni, 42 di, anni. Di musica praticamente, non ce n'è per nessuno proprio. Grazie davvero, grazie a te Claudio, molto gentili e pazienti, quindi saluti, a me piace salutare all'inglese dicendo hugs, che sarebbero abbracci. Ok, very well. Alla prossima, se ce ne sarà un'altra, Claudio. Del 2011 per il nuovo disco, Claudio, quello è sicuro. Perfetto, assolutamente prenotato. Certo, grazie. Ciao Claudio, ciao. Grazie. Claudio Rocchi con noi, a questo punto Maurizio direi di andare a sentire l'ultima canzone per questa serata e per questa terza, ultima puntata della vita musicale di Claudio Rocchi. La canzone l'abbiamo nominata anche prima, proviamo un po' a scioglierci. Proviamo un po' a scioglierci, dai corpi si arriva più veri sul cuore. Vedrai che aprire tra noi non ci toglie di più di quello che ci può dare. Per dire veramente com'è, non ci capisco più niente, ho bisogno di te. E dai, dai, sciogliamo col fuoco quel ghiaccio, che è l'acqua che toglie la sete. E dai, togliamoci insieme i vestiti, che i corpi si sono trovati. Giocando noi ci conosciamo, è più chiaro chi siamo. E dai, mettiamoci in pausa un momento, suoniamoci un po' con le dita. E dai, lasciamolo stare il pudore, che ruba momenti alla vita. Domani non so che faremo, ma adesso lo vedi, ridiamo. Adesso, sfatando un mito, ci parlo sopra. Sai che di solito la regola per noi di, insomma, della fascia serale di Blu Radio Veneto è quella di non tagliare mai niente. Insomma, questa volta vabbè, ci stava bene. Una bella chitarra, molto blues, direi. Assolutamente blues. Claudio Rocchi con noi, l'abbiamo salutato pochi minuti fa, 22:51, è anche il caso di chiudere di esattamente, salutarci, di darci appuntamento alla prossima occasione. Vabbè, magari non con me, è tornato Flavio insieme a te, Maurizio, e quindi non so se tra 15 giorni ci risenteremo sicuramente. Ci sarà un fra 15 giorni con te, con me. Ah sì, penso di sì, lo scopro adesso. O fra 15, beh, ci risentiremo. Ma io sono sempre disponibile. Sì, ci risentiremo. Quanto accadrà nel senso positivo. Parliamo di domani. Sì, domani c'è Germano Bonaveri, un cantautore milanese, e mercoledì e giovedì un altro cantautore padovano, stavolta Nicola Povan. Sì, stiamo parlando ovviamente della musica dal vivo nei nostri studi, quindi appuntamento domani alle 22 e mentre giovedì alle ore 21. Giovedì alle ore 21. Giovedì con Agostino Spolaore. In regia è sempre te a intrattenere, sì, a manovrare i nostri amici musicisti. Buona serata, buonanotte ormai da Sergio Bortolami e Maurizio Calzavara. E da Maurizio Calzavara è tutto, ci sentiamo alla prossima occasione. Bye bye.